mattino beve un grappino, mi fumo un sigaro, me viene su gatta, non so credo. Visto che hago scritto scorrendo, son credo. Son credo. Visto che hago scritto scorrendo, son credo. E a mezzogiorno mi guardo un film porno, mi sparo una pipa, mi sparo sulle tripa. Son credo. Visto che hago scritto scorrendo, son credo. Son credo. Visto che hago scritto scorrendo, son credo. E a mezzanotte poi fa le veciotte, metto una puttana amica e poi vola la facciana. Son credo. E visto che hago scritto scorrendo, son credo. Son credo. E visto che hago scritto scorrendo, son credo. Wow! Mi dice Lazzaro, nel silenzio della chiesa, mi chiamano una scoretta, son credo. Visto che hago scritto scoretta, son credo. Son credo. Visto che hago scritto scoretta, son credo. Son credo. Visto che hago scritto scoretta. Yeah.